in primo piano. E allora le prime pagine oggi ovviamente sono tutte, quasi tutte dedicate alla, al processo breve. Ovviamente ci sono commenti di tutti i tipi. Vi segnaliamo però in questo panorama così un po' assai poco variegato, sia la nuova legge salva premier, titola ad esempio Repubblica, eccovi, oppure come ci si può aspettare sull'unità, la morte della giustizia. Vi segnaliamo giusto la prima pagina della Stampa, un po' alternativa: Berlusconi non mi ricandido, e si focalizza la Stampa quindi sulla possibilità che l'attuale ministro della giustizia Alfano poi un giorno prenda il suo posto. Abbiamo qualche minuto prima della pausa per come sempre il meteo, e allora lasciamo i commenti sul processo breve a subito dopo, e adesso vi segnaliamo sempre dalle pagine della Stampa un allarme che risuonerà probabilmente oggi in tutto il mondo. Allarme Rialto. Il ponte perde i pezzi. Ennesimo crollo sul ponte simbolo di Venezia. Mancano fondi per il restauro. C'è anche un paradosso. Adesso poi ci arriviamo, lo leggiamo insieme. Scrive Anna Sandri da Venezia. Un cornicione da Palazzo Ducale, peraltro in testa una turista. Un gradino dalle fondamenta davanti a Ca' Farsetti, che incidentalmente è la sede del comune. Un masegno da Riva Sette Martiri, così che la nonna inciampa, il passeggino le sfugge, il nipotino finisce in Canal Grande, per fortuna la mamma si tuffa e lo salva, ma adesso che a staccarsi pulita pulita come il primo incisivo da latte di un bambino è una colonnina della balaustra del ponte di Rialto, è come se fosse stato messo il timbro della ufficialità. Venezia cade a pezzi e con l'ultimo di una lunga serie di episodi lo fa sotto gli occhi del mondo intero. La panciuta colonnina Nina è venuta giù così, per stanchezza, appoggiandosi per fortuna sulla pietra di un lato meno frequentato del ponte senza finire in acqua. Recuperarla è stata semplice, ci hanno pensato i vigili urbani, dopo una segnalazione subito hanno potuto escludere un atto di inciviltà. È Venezia il peggior vandalo di se stessa, perché per stare dietro a tutto quello che servirebbe servono soldi, e soldi non ce ne sono. Se mai ci fossero, sarebbe la burocrazia a mettersi di mezzo. A favore di un intervento di restauro delle colonnine a titolo gratuito si era espressa la Confartigianato veneziana, ma dopo aver ottenuto il via libera della soprintendenza sono emersi problemi di natura fiscale. In sostanza, sulla base delle leggi, i restauratori dovrebbero pagare l'IVA per un intervento a costo zero. Va bene l'amore per Venezia, va bene anche non guadagnarci, ma rimetterci è stato giudicato eccessivo, ed è comprensibile. Il progetto è pronto, è stato fatto a titolo gratuito e un cantiere riparerebbe in 3 mesi proprio il lato dal ponte dove si è verificato l'ultimo incidente, ma per ora è tutto fermo. Il ponte di Rialto, costantemente monitorato grazie a 25 sonde posate sotto appunto i masegni e soprattutto da quando sotto l'arcata sono stati rilevati segni pericolosi, sembra godere di uno stato di salute generale piuttosto buono, considerando i 5 secoli di vita. Ma insomma, tutti questi rilevamenti per ora rilevano dei danni che non si riesce a riparare. Ne parleranno sicuramente in mezzo mondo, come in mezzo mondo si parla di quello che sta accadendo. L'immigrazione massiccia dal Nord Africa, dicevamo, sarà tema poi dopo della nostra intervista con il presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Imperia. E allora leggiamo qualcosa anche su questo tema. Leggiamo ovviamente dalle pagine del Secolo XIX. Cosa sta accadendo a Ventimiglia? Sale la tensione, commercianti contro i tunisini. Da mesi a Ventimiglia i commercianti denunciano una crisi senza precedenti, scrive Patrizia Mazzarello. Ma da quando è iniziata l'emergenza legata ai migranti economici provenienti dalla Tunisia che arrivano al confine nel tentativo di raggiungere la Francia, ebbene, dicono i commercianti, la situazione è letteralmente precipitata. In sostanza, si scrive, non arrivano più nemmeno gli acquirenti tradizionali dalla Francia, specialmente in questo periodo di Pasqua, acquirenti che a quanto pare arrivavano in Italia soprattutto per ordinare vino e liquori speciali. L'anno scorso, nei mesi di marzo ed aprile, dice un commerciante, ho venduto 200 cartoni, quest'anno soltanto 5, spiega il titolare di una nota enoteca cittadina, quindi imputando alla presenza di migranti questo mancato incasso. Poi è arrivato il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che nelle scorse ore ha invitato, forse ricorderete, gli esercenti a non vendere alcolici ai tunisini. E come facciamo? Chiediamo loro il passaporto? Questa è una proposta assurda che rischia anche di aumentare la tensione. Primo, perché non servire alcolici ai clienti? Per non servire alcolici ai clienti serve una ordinanza. Secondo, perché non si può discriminare la gente. A te servo la birra e a te no? E se si presenta il mio vicino, originario di Tunisi, ma in Italia da 10 anni, è il commento stizzito che arriva dalla maggior parte dei baristi. A me risulta un clima del tutto diverso, replica invece il primo cittadino. La gente mi ferma e si complimenta con me. So perfettamente che non è facile non dare da bere a queste persone, proprio per questo non ho emesso un'ordinanza, ho fatto un semplice invito ai commercianti. Lo faccio nel loro interesse, ho appena chiamato la polizia perché c'erano 7 tunisini ubriachi sotto la passerella del Roia e l'altra sera al centro di Bevera la Croce Rossa ha lasciato fuori diversi giovani che si sono presentati visibilmente al Ticci. Sentiremo cosa ci dirà appunto il presidente del comitato provinciale della Croce Rossa a proposito di questi giovani al Ticci e soprattutto della loro presenza massiccia in città, che è sempre più difficile da gestire. Chiudiamo, per così dire, il discorso sulle immigrazioni che abbiamo iniziato poco fa sulle pagine della Padania e poi su quella della Unità. La Padania che oggi titola Made in Francia da boicottare. Dopo i veti di Parigi sulle immigrazioni, le sue scalate per colonizzare l'economia, la sfida leghista. Umberto Bossi dice: anche i francesi hanno messo al bando il latte padano, chi la fa l'aspetti. Andiamo nelle pagine interne, seconda e terza pagina. La Francia ci boicotta, facciamo lo stesso. La pseudo Europa unita, scrive Giovanni Polli, nel suo complesso e nei suoi singoli stati membri dimostra ad ogni occasione di pensare soltanto alle merci e alle misure degli ortaggi e non ai problemi dei popoli e delle persone. Ed allora forse non resta altro da fare, cioè attaccarla simbolicamente là dove solo ci sente, tra virgolette, il commercio. Questo è il senso delle dichiarazioni di Umberto Bossi in merito al boicottaggio delle merci d'Oltralpe dopo che Parigi ha respinto i permessi temporanei per i migranti. Si fa bene, ha detto il senatore, anche i francesi hanno boicottato il latte padano, chi la fa l'aspetti. Se la Francia, paese da sempre che da sempre si autonomina patria dei diritti dell'uomo e si permette di impartire lezioni all'universo mondo in tema di ospitalità e di accoglienza, si dimentica di tutto e chiude ora le frontiere a chi è dotato di un regolare permesso temporaneo di soggiorno, allora forse è il caso davvero di dimenticarci un po' della sua esistenza. Ci volevano proprio i rivolgimenti del Nord Africa e l'inizio del plausibile ingresso in massa dei migranti nel nostro continente per mostrare a tutti che questa fantomatica creatura alla quale si è pomposamente dato il nome di Unione Europea è in realtà proprio quello che la Lega ha sempre denunciato che fosse: una tigre di carta. L'attacco è preciso e diretto in tutto. Dicevamo anche sulle pagine dell'Unità, Don Filippo Di Giacomo, tra l'altro spesso è stato a Radio 24, quei battesimi di cui nessuno parla, scrive, sottolinea un aspetto interessante e sicuramente, come dice lui, poco noto. Nelle nostre chiese, durante le veglie del Sabato Santo, è ormai frequente assistere al battesimo di persone adulte. Si tratta spesso di immigrati musulmani che talvolta diventano cristiani insieme a moglie e figli. Come ogni anno però il loro gesto resterà ciò che realmente è, un atto legato alla vita personale, circondato quindi da grande discrezione, e nessuno sbandiererà la religione d'origine dei neofiti. Il proselitismo militante, infatti, da almeno 4 decenni non è più una categoria dello spirito cattolico. Di certo su coloro che provengono dall'Islam non incombono solo le pene previste per gli apostati dalle 4 scuole giurisprudenziali della Sharia, ma le legislazioni dei loro paesi di origine, che dal Marocco all'Egitto, passando per Tunisia, Algeria e Turchia, hanno ultimamente inasprito, dopo le rivoluzioni liberali delle ultime settimane, le leggi civili e penali contro chi annuncia e soprattutto accetta il cristianesimo. In Italia, per coloro che lasciano l'Islam, il cattolicesimo non è l'unico approdo. Segue si aggiunge poi, interessante, è ormai usuale che il Sabato Santo in Francia il battesimo di adulti raggiunga cifre che oscillano tra i 500 e i 2000. Non sono pochi in Italia i numeri, scrive Don Filippo Di Giacomo, sembrano inferiori ma solo perché le diocesi interessate non forniscono i dati, voci anonime invece accreditano quasi lo stesso livello di quelle francesi, quindi tra le 500 e le 2000 le cerimonie di battesimo che si terranno nel Sabato Santo. E allora andiamo finalmente Al processo breve, se ne parla ovviamente su tutti i giornali, i commenti in questo senso sono abbastanza prevedibili, quelli di, del Corriere oggi purtroppo non potremo fornirveli perché non ci è stato consegnato in tempo, grave ma è accaduto, quindi in questo momento partiremo dalla Repubblica e via via tutti gli altri quotidiani senza il Corriere, dichiariamolo subito altrimenti pensate che ci sia una preclusione da parte nostra nei confronti del quotidiano di via Solferino. Allora, dicevamo Repubblica. Repubblica, ovviamente i commenti si sprecano, il nichilismo al potere di Carlo Galli, agonia di regime, Guido Krains. Cominciamo da Galli, il nichilismo al potere. Nella prima pagina inizia: ieri la Camera, tra le proteste di una cittadinanza che si sente tradita dal palazzo, ha approvato una legge vergognosa, l'ennesimo provvedimento ad personam per salvare Berlusconi dai suoi processi e farne un soggetto superiore alla legge. Si prosegue: se secondo il Premier è surreale la sua presenza da imputato in tribunale, va detto che davvero davanti alla giustizia emerge con chiarezza il rapporto peculiare che il Cavaliere instaura tra politica e realtà, che certo è surreale ma in senso opposto a quello che gli propone, nel senso cioè che per il Premier la politica è la decostruzione della realtà, il rovesciamento della sua architettura, e nel provvedimento sulla prescrizione breve, in questa misura di autodifesa distruttiva, si rendono evidenti le implicazioni più generali e più fatali dell'essenza nichilistica e paradossale della destra al governo, che si concentra nella persona di Berlusconi. Ancora qualche riga. Quell'essenza si presenta con una serie impressionante di inversioni delle logiche politiche di una moderna democrazia, di rovesciamenti dei suoi apparati concettuali, in primo luogo come sempre del rapporto tra pubblico e privato, il Parlamento, il luogo per eccellenza della politica, in cui la pubblicità prende forma, che viene posto al lavoro a testa bassa con sprezzo della verità e della giustizia, al servizio e al soccorso della singola persona del Premier. In realtà nulla di nuovo rispetto a quello che è normalmente il commento di Repubblica su questi temi. Se andiamo su Libero, si espone Maurizio Belpietro. Silvio mezzo salvato, questo il titolo a tutta pagina, scrive Belpietro, tiè come attacco. Berlusconi per la seconda volta in pochi mesi ha fatto il gesto dell'ombrello a chi pensava di averlo messo nel sacco, come il 14 dicembre quando la sinistra e Finiani si accordarono per farlo cadere nella trappola della fiducia. Al Premier è riuscito di salvare la pelle facendo approvare il processo breve che gli allunga la vita politica. Ovviamente, di quella mortale si occupa Don Verzè. Dunque, anche l'ultima arma con cui l'opposizione sperava di far fuori il Cavaliere ora si rivela scarica, perché con la nuova legge, che ora aspetta solo lo scontato imprimatur del Senato, il caso Mills, ovvero la più imminente delle minacce giudiziarie che incombono sul Presidente del Consiglio, è definitivamente morto e sepolto, e quindi il suo decesso non potrà che essere ufficializzato a breve. A pagina 3 Belpietro scrive poi: fiutata l'aria, il Premier ha risolto il problema alla maniera sua e bloccando per legge chi puntava a mettergli al collo il cartello di corruttore. Ovviamente questo non è l'epilogo della storia. Chiuso il capitolo Mills, restano aperti tutti gli altri. Quasi fosse un'idra per ogni processo che si chiude, ne spuntano altri due. Ieri ad esempio sono sbucate un paio di nuove testimoni contro di lui da usarsi nel caso Ruby, due ragazze che a distanza di mesi dal deflagrare della vicenda si sono improvvisamente ricordate d'essere state alle cene del Premier. Giugiù Belpietro poi conclude: se lo desidera molli pure il Premier tra due anni, ma prima di andarsene veda di sistemare non solo il processo suo ma anche quelli degli italiani. Faccia la riforma della giustizia come promesso e ci liberi dalle toghe, perché lui può andarsene e noi no. Così Belpietro su Libero. Se poi invece andiamo agli ex amici di Berlusconi, andiamo sul Secolo d'Italia, Parlamento Game Over, titolo. Passa la norma antiprocesso Mills, la rabbia dai parenti delle vittime. Agostino Carrino scrive: ma è proprio così intelligente Angelino Alfano? Così non sembrerebbe, se giustifica la prescrizione breve con il fatto che il numero dei processi che cadrebbero sotto la scure dell'ennesima legge escogitata per favorire Silvio Berlusconi sarebbe lo 0,2% in più di quelli che normalmente decadono per decorrenza dei termini, che sono circa 170.000 all'anno. Giustamente Pier Ferdinando Casini gli ha chiesto: ma allora perché la fate questa legge? Purtroppo il perché della legge, nonostante gli ideologemi di Alessandro Sallusti sul Giornale relativamente ai diritti delle maggioranze elettorali e della politica rispetto alla magistratura, è fin troppo evidente. Così scrive Carrino, che poi a pagina 5, poi lasciamo spazio alla viabilità, aggiunge: l'ostruzionismo dell'opposizione è legittimo, però ritardato solo di un giorno. L'impunità di Berlusconi, poca cosa rispetto al problema di rifondare la nazione. Naturalmente più tardi si comincia e più tardi si arriva. Anche per questo ha ragione D'Alema quando auspica lo scioglimento delle Camere da parte di Napolitano. Si dirà che il capo dello Stato può esercitare questo potere solo in assenza di una maggioranza parlamentare e che questa, grazie a Scilipoti, non dimenticate, non nominato da Di Pietro, e a qualche transfuga da Fli, tuttora esiste. E ancora per parlare di processo breve andiamo sul Manifesto, un rapido sguardo anche qui. Senza vergogna ma anche senza alcun problema, la maggioranza che ha approvato alla Camera la legge che cancella il processo Mills, scrive Andrea Fabbozzi. Tutto l'impegno del PD e dell'Italia dei Valori è servito solo a rimandare il via libera di un paio d'ore rispetto alle migliori previsioni del centrodestra. Il fragore delle proteste di piazza e gli ardimentosi propositi dei deputati democratici si sono infranti contro la forza dei numeri berlusconiani, ma anche contro i limiti delle opposizioni, pronte a rinunciare a qualche ora di ostruzionismo in cambio della diretta televisiva e alla fine incapaci di bloccare davvero l'aula. Attacco diretto quindi anche alle opposizioni. Torniamo per qualche istante, per tutt'altro argomento, alle pagine di Repubblica, perché poi appunto il tema della faziosità o meno dei libri di storia sarà quello che discuteremo in 24 mattino a partire dalle 8.30. Ne scrive oggi su Repubblica Stefano Bartezzaghi con Maria Pia Veladiano. La campagna di primavera contro la scuola italiana ha un bersaglio principale, scrivono, l'insegnamento e i professori, dall'attacco all'educazione pubblica accusata di inculcare nei ragazzi dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai propri figli, fino all'ultima proposta dei deputati PDL, della quale discuteremo, che invocano una commissione parlamentare che valuti l'imparzialità dei testi scolastici adottati, perché molti oggi plagiano i giovani. È evidente che sono gli insegnanti a fare paura e che in questo modo si cerca di spezzare quella preziosa alleanza tra docenti, famiglie e ragazzi che spesso ha fatto delle aule scolastiche una sorta di laboratorio delle differenze culturali. Così colpire la figura dell'insegnante vuol dire paradossalmente enfatizzare il suo ruolo di solitario artefice della cultura, dall'altro implicitamente isolarlo sotto la lente di un'osservazione speciale politica minuta, moltiplicata, asfissiante. Uno sguardo che non è complice e collaborativo, ma indagatore e giudice. Prosegue a lungo la discussione nelle pagine interne di Repubblica, proseguirà la nostra discussione a partire dalle 8.30. Diamo uno sguardo anche al Riformista, che apre su Giulio Forever, una fotografia del ministro Tremonti, Alessandro De Angelis. Il cambio di passo è da politico consumato. Proprio nel giorno in cui il premier schiera il palazzo a difesa dei suoi guai giudiziari, vietando ai ministri pure la pausa caffè, proprio ora che il tantam attorno a soluzioni di transizione rimbalza nelle stanze dei poteri che contano, Giulio Tremonti sveste i panni del grande cospiratore. E si intesta il rilancio dell'economia. Seduta a fianco di Silvio Berlusconi nella sala stampa di Palazzo Chigi, ostenta sintonia, difende l'operato del governo. Col passare dei minuti, anzi delle ore, il tempo concesso ai cronisti è lunghissimo. Quello che doveva essere l'eroe di giornata, ovvero Angelino Alfano, l'eroe della difesa politico-giudiziaria del premier, entra in un cono d'ombra. E il superministro, il cospiratore, annuncia una fase 2 e non solo, col piano di sviluppo che sarà presentato in Europa, fatto di numeri, conti, tabelle, non pie illusioni. Per la prima volta dà assicurazioni sulle inquietudini meridionaliste che turbano mezzo governo e annuncia che è allo studio la riforma del fisco. E c'è un motivo se ben informati parlano di una tregua armata col premier. Con Tremonti che dà ossigeno al governo, fugando i dubbi e mandando segnali a Confindustria e sindacati, e con Berlusconi impegnato a difendersi dai guai giudiziari e a schiarirsi le idee su come arrivare al 2013. Per ora non sono definite queste idee. Prosegue poi l'articolo piuttosto lungo di Alessandro De Angelis sul Riformista. due segnalazioni, una da Avvenire, molto interessante. De Gaulle, il primo presidente televisivo, aveva il truccatore della Bardot, studiava recitazione, sapeva usare lo schermo come nessuno. Parla lo storico Brizzi, che su questo tema ha scritto un libro, L'uomo dello schermo, De Gaulle e i media, da oggi in libreria, precisa Avvenire, per i tipi del mulino. Tutto nacque per una intervista televisiva, per una dichiarazione televisiva di Charles de Gaulle, al termine della quale la moglie di De Gaulle gli disse: Charles, siete orribile, siete bianco come un formaggino. E da lì in poi tutto è cambiato per il generale, che tra l'altro si impose anche regole ferre nei discorsi. Aveva due precise forme di comunicazione, si scrive. Ne utilizzava due, l'allocuzione e la conferenza stampa. Il primo metodo, quello del discorso solenne alla nazione, lo usava prima dei referendum, delle elezioni e nei momenti di crisi. E poi c'era ovviamente la conferenza stampa per grandi annunci internazionali nel 63, nel 67, quando pone il veto all'ingresso della Gran Bretagna nella CE. Non si trattava però di vere e proprie conferenze stampa, ma di una sorta di affermazione scenografica della propria autorità davanti al mondo e al paese. E cioè, i giornalisti non possono fare domande? Praticamente no. Tutto è definito prima nel dettaglio. Nel salone delle feste dell'Eliseo lui si pone su un piedistallo. Alla sua destra e alla sua sinistra ci sono i ministri e i collaboratori che si alzano e applaudono quando entra in scena. Più in basso una grande platea con giornalisti e ambasciatori. Poiché non ha occhiali utilizza una piantina, consegnati nell'ordine i punti della sala da dove arriveranno le domande concordate per rivolgere il volto nella giusta direzione. E per le domande impreviste non risponde o replica con una battuta ironica passando ad altro. Questo l'articolo di Roberto Zanini su Avvenire. Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore di oggi: ai top manager italiani un assegno post crisi da 300 milioni di euro, la media nelle quotate arriva a 3 milioni. Scrive Gianni Dragoni: sono aumentate le buste paga dei vertici delle società quotate alla Borsa di Milano nel 2010. Secondo un'inchiesta del Sole 24 Ore sui bilanci finora pubblicati, l'anno scorso i compensi complessivi dei 100 manager più pagati di Piazza Affari sono cresciuti in media del 17% circa, a un totale di circa 300 milioni di euro rispetto ai 256 milioni del 2009. Nei guadagni calcolati in questa inchiesta sono ricomparse per una larga minoranza di società le stock option. A spingere il monte compensi e anche la super liquidazione di Alessandro Profumo, ovviamente per le dimissioni da Unicredit, 38 milioni lordi, che sommati allo stipendio fino al 21 settembre, pari a 2,59 milioni, hanno portato a 40,59 milioni lordi il totale percepito nel 2010 dall'ex amministratore delegato della principale banca italiana del patrimonio. Per patrimonio, la classifica 2010: Alessandro Profumo, segue Luca Cordero di Montezemolo, Marco Tronchetti Provera, Cesare Geronzi, Fausto Marchionni, ma insomma non sono questi ovviamente gli unici paperoni tra i top manager. Potete leggere tutto sul Sole 24 Ore. Ci ritroviamo dopo il GR24 per proseguire con 24 Mattino. Buona giornata.